locali pieni di gente più sola, una sinfonia, sembra un po' Mozart, sempre più vuoti musei, sempre più pieni sti social, il mondo che cade, tutto lo sfascio, cito Bernini, mi chiedono liscio con ghiaccio, dammene un altro. Il virus più grande del nuovo millennio non si diffonde con strette di mano, si è già diffuso nel mondo da un pezzo e porta il nome di essere umano. Scusaci Gaia, scusaci Terra, sono anni che ti vedo a terra, sono anni che bruci, non sembri un pianeta, sembri una stella. Cosa accadrà? Piaghe sul mondo come Mara, celebrità, idolatrare le amebe delle nullità, gioco di carte Cézanne, questa è l'ultima cena, giura, questa è l'ultima cena, Giuda, la gente ha uno sguardo di pietra, la testa di Medusa. Sì, come Stendhal, mentre guardo fisso un'opera, ed è come far l'amore per la prima volta, un mistero eterno come la Gioconda. Io tremo dentro